9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano di dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Buongiorno care ascoltatrici e cari ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a 9 in punto. Torneremo, ve lo prometto, al netto di questa attualità che ci insegue e che riguarda naturalmente la situazione politica dalla quale dipende molto in queste ore. Torneremo sul tema che in realtà l'ascoltatore che abbiamo scelto come tormentone di questo periodo, Angelo, ci segnala alla fine della sua telefonata. L'Italia sta morendo e io con loro. Oggi una nuova apertura del Sole 24 Ore dedicata alla situazione di difficoltà delle aziende, dove difficoltà probabilmente dire poco. Ci sono dei dati del CERVED di ieri che segnalano come siano ad un record, a 47.000 le aziende che hanno avuto almeno un protesto. Altri dati riguardano il ritardo dei pagamenti non solo da parte della pubblica amministrazione, quello già lo sappiamo, ieri nei GR vi abbiamo fatto anche ascoltare chi calcola che in realtà questa cifra sia superiore ai 70 miliardi indicati in queste ore nel dibattito pubblico, ma arrivi addirittura fino ai 100 miliardi. Torneremo appunto su, come si diceva, ci sono questi dati CERVED che indicano sui ritardi dei pagamenti, un ritardo dei pagamenti anche tra azienda ed azienda, ossia verso appunto i fornitori, ritardi che sono arrivati al 7%, dal 5 e qualcosa dell'inizio del 2012 al 7% di fine 2012. Quindi su questi temi naturalmente torneremo. Perdonerete se in questi giorni naturalmente con questa attualità politica stringente ci soffermiamo un po' anche su questo, perché insomma sono temi che riguardano poi le soluzioni dei problemi del paese, cioè come si arriva alle soluzioni dei problemi del paese, perché per risolvere i problemi di un paese naturalmente ci vuole un governo e questo lo sapete benissimo. Uno dei temi di queste ore, che però riguarda anche il tema dell'utilizzo del denaro pubblico e quindi anche le questioni economiche, è il rimborso elettorale, chiamiamolo così, che è la forma corretta di dirlo, anche se insomma è nella sostanza finanziamento pubblico ai partiti. Finanziamento pubblico sul quale si sta concentrando un dibattito all'interno del Partito Democratico. Ha gettato un po' di acqua sul fuoco ieri Renzi dicendo: guardate, il mio dire aboliamolo, proponiamo di abolirlo, è un modo per dare più chance a Bersani di formare un governo col Movimento 5 Stelle, poi insomma decida lui alla fine che cosa fare. Nel frattempo il Movimento 5 Stelle programma invece naturalmente di restituirli questi rimborsi elettorali. Saluto innanzitutto Simona Bonafè, neodeputata del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Vicina a Matteo Renzi, lo possiamo dire tranquillamente questo. Allora, ci spiega questa posizione? È solamente un modo per dare maggiori chance, ma in realtà nella campagna per le primarie la vostra posizione è stata abbastanza netta da questo lato. Ma sì, devo dire che il tema dell'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti è un tema che stiamo affrontando non da qualche settimana, ma oserei dire da anni in effetti, dalle prime Leopolde. Ed è un tema a nostro parere importantissimo, perché guardi, io penso che se noi possiamo trarre una lezione da queste ultime elezioni e dalla vittoria di Beppe Grillo, dobbiamo trarla anche in questi termini, cioè dobbiamo capire che il voto a Beppe Grillo è stato un voto di protesta, un voto di protesta, un voto all'insegna del mandateli tutti a casa. Quindi io penso che il voto a Beppe Grillo sia sostanzialmente un voto di sfiducia nei confronti del sistema del partito attuale, del sistema della politica. E devo dire che i partiti sono visti un po' ultimamente come il luogo dello spreco e degli scandali, no? Legati all'utilizzo dei soldi pubblici. Insomma, ricordiamo tutti le recenti vicende anche di alcuni tesorieri. non dei partiti, per cui abolire il finanziamento pubblico significa un po' ristabilire questa fiducia nei confronti dei cittadini, cioè ridare dignità alla politica, anche perché Bonafè, c'è un referendum che è stato votato su questo nel 1993 ed è stato bellamente aggirato, no? Esatto, ma cioè, soprattutto un referendum in cui si è espresso il 90% dei consensi contro il finanziamento pubblico ai partiti. Quindi, ripeto, secondo me l'eliminazione del finanziamento pubblico però sta tutta lì, cioè sta nel ristabilire questa fiducia con i cittadini che oggi i partiti hanno perso. Poi io credo che noi dobbiamo ripartire da qui, questo è il primo atto che appunto ci serve ad acquistare, a riconnetterci con i cittadini. Poi i problemi sono altri, lei inizio trasmissione insomma ha elencato una serie di difficoltà sulle quali la politica deve dare delle risposte serie, c'è la difficoltà delle aziende e insomma il ritardo dei pagamenti dello Stato nei confronti delle aziende che lavorano per la pubblica amministrazione, è un problema serio, però appunto noi dobbiamo partire dando dei segnali di, come dire, appunto, di credibilità della politica. E ecco, non possiamo che dobbiamo partire necessariamente a nostro modo di vedere dall'abolizione del finanziamento pubblico. Dall'abolizione del finanziamento pubblico. Bonafè, si faccia chiedere una cosa, ma gliela fa Bersani secondo lei? Ma senta, sono in atto proprio in queste ore, in questi giorni, le trattative con il Movimento 5 Stelle, cioè Bersani non l'ha mai negato, diciamo che il sentiero e la strada è tutta in salita. E vediamo, insomma, io penso che non sarà sicuramente facile. E non gliela fa, e devo dire che, ma sa, diciamo che il Movimento 5 Stelle non sta dando grandi segnali d'attenzione o grandi segnali di apertura, anzi riceviamo continui schiaffi. Dopodiché io penso che col risultato elettorale che consegna il Partito Democratico la maggioranza assoluta alla Camera e la maggioranza relativa al Senato, io penso che spetti a Bersani il diritto, dovere, mi faccia dire, di lavorare su una proposta. Dopodiché siamo tutti consapevoli che appunto i margini di riuscita sono piuttosto stretti. Saluto Andrea De Franceschi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Emilia-Romagna. Buongiorno De Franceschi. Buongiorno. Ma visto che la posizione a favore dell'abolizione, a questo punto, dei rimborsi elettorali, perché come continuano a farci notare anche via Twitter, vi ricordo l'hashtag 9 in punto, oppure potete scrivere direttamente a me, Simone Spezia, ci continuano a far notare che c'è stato un referendum nel 93, quindi usiamo la giusta dicitura, rimborsi elettorali. Sull'abolizione dei rimborsi elettorali abbiamo qualcuno che si è già espresso, saluto Maurizio Bianconi invece, che è deputato e tesoriere vicario del PDL, il Popolo della Libertà. Buongiorno Bianconi. Buongiorno a voi. Lei è contrario all'abolizione dei rimborsi? No. Ah no, io è favorevole? Sì, io dico che deve essere mantenuto soltanto la possibilità di smantellare le strutture che abbiamo dalla mattina alla sera, insomma. Se io ho criticato soltanto la decurtazione in corso di esercizio la scorso anno, come oggi criticherei l'abolizione per questa gestione. Se mi dicono che io il 2013 lo devo gestire con i soldi che mi hanno promesso, lo gestisco, nel 2014 faccio diversamente, ma non a metà anno dire che non me li danno dopo che me li hanno promessi. Cioè, lei dice dateci il tempo di attrezzarci sostanzialmente, sono soldi sui quali noi abbiamo di liquidare il personale, di chiudere le sedi, perché noi abbiamo gli affitti e abbiamo 6 mesi di disdetta, il personale in qualche maniera bisogna mandarlo a casa, anche lì ci sono dei tempi, sono lavoratori dipendenti, hanno anche loro i loro diritti, e siccome siamo un'associazione non riconosciuta, nessuno gli garantisce questi soldi, facciamo in modo di uscirne, diciamo così, senza danni per tutti. Ma per me si può abolire benissimo. Bersani difende un principio storico, io penso, e lo capisco, perché una sinistra che per non lasciare i partiti ai ricchi, diciamo così, chiese il finanziamento pubblico, come chiese a suo tempo l'indennità per i parlamentari, e sotto questo profilo è comprensibile. Però se si deve fare senza, si fa senza. Se si fa senza, dice lei, però la gente la dobbiamo licenziare, insomma. Dobbiamo liquidare quelle strutture che abbiamo messo in piedi in nome di un articolo della Costituzione che è il 49, che dice che i partiti vanno organizzati per la vita democratica. Noi l'abbiamo organizzato, prima venivamo accusati di essere un partito di plastica, quando siamo diventati un partito in carne e ossa avete detto, è stato detto basta, va bene, smettiamo, abbiamo scherzato, non c'è problemi. Andrea De Franceschi del Movimento 5 Stelle, consigliere regionale in Emilia-Romagna, tra l'altro le ritorna accanto Giovanni Favia, no? In consiglio regionale, che non è stato eletto. Giovanni Favia è mi accanto da 3 anni, sì. non è questa una novità. Non è una novità. Senta una cosa, voi naturalmente avete la posizione più netta da questo lato, perché insomma avete intenzione addirittura di rifiutarlo il finanziamento pubblico, o chiamiamolo rimborso elettorale. Ci dica. Ma che possiamo anche chiamarlo truffa legalizzata ai cittadini che hanno votato il referendum di cui avete parlato prima. Noi non abbiamo una posizione netta, noi abbiamo la posizione di quello che è stato chiesto agli italiani, che non le hanno voluti, e sono rimborsi elettorali a cui noi abbiamo già rinunciato, anche questo non è una novità, ci abbiamo rinunciato in Emilia-Romagna lasciando nelle casse dello Stato quasi 1 milione di euro, ci hanno rinunciato in Piemonte, in Sicilia, adesso lo stanno facendo nel Lazio, nel Molise. È un evento storico per la storia della Repubblica Italiana, visto che nessuno ha mai rinunciato ai rimborsi elettorali in questo modo completo, ed è la prima volta probabilmente che si fa quello che è stato chiesto tramite un referendum. Tutte le opinioni, anche questo che ho sentito adesso, questo del PD, signore del PDL, sono assolutamente ininfluenti, non sono interessanti le opinioni di nessuno, in quanto l'unica opinione che deve contare è quella dei cittadini a cui è stato chiesto tramite un referendum. E però Bianconi sottopone un problema concreto, e anche dei problemi concreti bisogna occuparsi, insomma ci vuole un attimo di tempo, o siete per l'abolizione tutto e subito? Ma guardi, noi siamo per l'abolizione tutto e subito, dovevano essere aboliti dal tempo del referendum, sono loro che hanno truffato i cittadini facendosi una legge ad persona, gli stessi del PD che parlano di legge ad persona di Berlusconi se la sono fatta una ad partitum loro, e io dovrei anche avere della pazienza. Io sento parlare di rispetto della Costituzione, di organizzati, noi abbiamo preso il 25% a livello nazionale, senza un euro di rimborso, di finanziamento, richiamiamolo come vogliamo, partecipando attivamente all'organizzazione della vita democratica di questo paese. I parlamentari che sono stati eletti lo testimoniano, se ci siamo riusciti noi probabilmente ci possono riuscire anche loro, se poi hanno utilizzato questi soldi perché fa comodo è un problema loro, i cittadini italiani non possono essere responsabili della loro mal gestione di qualcosa che hanno truffato gli italiani. In realtà io ho l'impressione, Bonafè, che tutto sommato poi ospiteremo tra poco una posizione diversa, che è storicamente diversa, è quella di Ugo Sposetti che stiamo raggiungendo. Io ho l'impressione, Bonafè, che quello che dice De Franceschi sia anche confermato dai fatti e da come avete condotto voi la campagna elettorale per le primarie, perché appunto è stata una campagna elettorale bella tosta, con un impegno di risorse, no, che abbiamo visto, i teatri, queste grandi convention eccetera eccetera, però di fatto finanziata dal basso sostanzialmente, magari con un po' di apporto di privati. Sì, devo dire che tra l'altro siamo stati gli unici, e lo sottolineo perché siamo stati davvero gli unici a mettere online tutti i nomi dei finanziatori della campagna per le primarie, e adesso tra l'altro sono pubblici anche i nomi dei partecipanti, lei se la ricorderà, no? quella cena con la finanza che destò tanto scandalo, ecco, sono tutti pubblici anche i nomi dei partecipanti a quella cena. E tra l'altro appunto noi abbiamo fatto una campagna elettorale per le primarie senza un centesimo di finanziamento pubblico, questo va detto. E tra l'altro quando le dico che siamo gli unici a mettere online i nomi di tutti i finanziatori, dico che siamo gli unici, e lo dico anche all'amico del Movimento 5 Stelle che ci sta ascoltando, perché io ecco sul blog di Beppe Grillo posso vedere che hanno raccolto, se non sbaglio, 600.000 di euro per lo Tsunami Tour, non so come per esempio li hanno spesi, e noi su questo dalla campagna elettorale per le primarie abbiamo sempre chiesto massima trasparenza, cioè che tutte le spese siano rendicontabili voce per voce, fattura per fattura, e tutto pubblicato online, Tra l'altro, guardi, questa è una buona pratica che già mette, che già è, applica il Comune di Firenze, quindi basta un po' di buona volontà. Io penso che anche in questo modo si può ristabilire, come le dicevo inizio trasmissione, la fiducia con i cittadini, cioè dando appunto visibilità a tutto ciò che si fa e con grande trasparenza e grande coraggio. Bonafè, Bianconi parlava della questione, del problema delle strutture di partito. Che cos'è questa storia del dossier? L'ha commissionato Renzi? Che cosa è successo? Ma guardi, io l'unico dossier che conosco di questi giorni è appunto quello sui creditori della pubblica amministrazione, cioè tutti il dossier che avete pubblicato tra l'altro voi del Sole 24 Ore, insomma, sui debiti dello Stato nei confronti dei creditori della pubblica amministrazione, quello è l'unico dossier che conosco ad oggi, quindi non c'è nessun dossier. C'è un problema che noi abbiamo sempre affrontato a viso aperto, che è quello appunto di come vengono spesi i soldi pubblici che vengono dati ai partiti. Ma a suo giudizio è pletorica la struttura attuale del Partito Democratico? Ma a mio giudizio una bella cura dimagrante penso che vada fatta. Penso che ci dobbiamo aprire una stagione, diciamola così, di post-fordismo per i partiti. Cioè, Beppe Grillo ci insegna anche questo, che si può fare politica con strutture ridotte, per cui sì, penso che insomma che un occhio bisognerebbe mettercelo. Marco ci chiama da Torino, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno, grazie. Io volevo chiedere al parlamentare, vostra ospite, se non si rendono conto di quanto sono patetici quando affermano che è da anni che parlano che della restituzione del finanziamento pubblico ai partiti. Sono patetici allo stesso grado di quando parlano del conflitto di interessi, cosa che non hanno fatto da anni ed era loro compito farlo nel Parlamento italiano. E poi per quanto riguarda il finanziamento pubblico ai partiti è molto semplice, basta destinare l'8 per mille ai partiti, non vedo, cioè, sono cose molto semplici da attuare, non riesco a capire perché in Italia si debba trovare difficoltà a fare delle cose. C'è qualcun altro che ce lo propone via Twitter, ci dice insomma perché appunto lo metti in dichiarazione dei redditi, se vuoi ce lo puoi destinare e insomma non ci pensi più. 9 in punto. Ed eccoci, Simona Bonafè tra poco ci deve salutare, quindi le faccio rispondere all'ascoltatore, poi sentirò anche Bianconi su questo, che accusa, dice insomma un po' di ipocrisia da questo lato, se ne continua a parlare, si continua a dire, ma in sostanza non si fa nulla. Fatta eccezione per questa legge varata sotto il governo Monti, che ha previsto il dimezzamento di fatto dei rimborsi elettorali. Bonafè. Esatto, ma appunto quello è stato un inizio, io penso che si debba procedere in questa direzione, che a mio parere è l'unica direzione possibile oggi per appunto far riacquistare fiducia e credibilità ai partiti. Poi guardi, certo poi si pone il problema di come si finanzia l'attività politica, perché comunque l'attività politica ha un costo, ci venivano dei dati, dei suggerimenti prima da un ascoltatore, quindi ci sono anche forme di contribuzione volontaria privata, chiaramente devono essere trasparenti e pubbliche, di modo che appunto tutti sappiano chi finanzia la politica, perché spesso e volentieri si sente dire che il finanziamento serve per evitare collusioni con gruppi di interesse economico. Appunto basterebbe rendere pubblici, rendere trasparenti gli elenchi dei finanziatori e nel caso anche stabilire un tetto massimo. Secondo me questo sistema peraltro non è nemmeno servito a porre un tetto alle campagne elettorali, che era uno dei problemi che più volte ci si era posti, per cui sicuramente i temi in campo sono tanti. Sì. C'è anche da dire che a mio parere andrebbe un po', come dire, ripristinato quel concetto di volontariato, perché la politica è anche passione e servizio. Guardi, io non so quanti soldi poi tornano ai livelli territoriali, che pure politica per esempio la fanno ai livelli territoriali, diciamo di base, della struttura del partito, che politica ne fanno e ne fanno anche tanta, e la fanno appunto con tanto volontariato. Sì, poi il tema, lo accennava lei, incrocia anche la questione della trasparenza nella gestione delle lobby. Si è detto spesso che in questo paese sarebbe necessaria una legge, ancora evidentemente non siamo riusciti a farla, però è un tema che andrà affrontato anche da questo lato, anche alla luce del fatto che inevitabilmente qualcosa sui rimborsi elettorali ai partiti dovrà avvenire. Bianconi, l'ipotesi di dare la possibilità di inserire in dichiarazione dei redditi, abbiamo detto 8 per 1000, insomma magari pensiamo al 5 per 1000, una voce specifica. C'è stata già questa cosa. Ci sono due problemi. Il primo problema è costituzionale, cioè non si può dire voglio darlo a quel partito, perché il voto è segreto e così le opinioni politiche. Quindi non si può fare una legge nel quale si dice che Maurizio Bianconi destina l'8 per 1000, quello che è, al Popolo della Libertà, perché è incostituzionale. Allora bisogna metterle in un fondo e poi fare un criterio di ripartizione. E la gente si rifiuta con i propri soldi di finanziare anche gli avversari politici. Quindi è un po' un cane che si morde la coda, perché questa secondo me sarebbe la migliore soluzione, cioè i cittadini nella loro denuncia dei redditi dicono guarda che io i soldi li voglio dare a questo partito, non si può fare. Bisogna trovare una soluzione, perché questa soluzione ha questi due problemi. Uno, la segretezza del voto, l'altro l'indisponibilità a finanziarli tutti che non sia il se non quello che sia il proprio. Questo è il problema vero. Quanto riguarda 5 Stelle, io voglio essere un pochino preciso, perché non ci possono essere buoni da una parte e cattivi dall'altra, perché questo non è neanche giusto. Intanto non è vero che in alcuni posti hanno rinunciato al finanziamento pubblico o altro, perché se li mettono in un fondo in cui finanziano i progetti che piacciono a loro, fanno esattamente come quelle amministrazioni che finanziano i progetti che piacciono a loro, andrebbero proprio restituiti alla fiscalità generale e da parte di tutti. E il secondo punto è che io voglio accertare se il Movimento 5 Stelle ha diritto al finanziamento pubblico per queste elezioni, perché io ho girato per tutta internet, per quel poco che ci capisco, e non mi pare che abbiano i requisiti di legge per poter accedere, però si sta a vedere. Cioè, quali requisiti, dice Bianconi? C'è la legge del 2012, che non è il primo passo, ma è l'ultimo passo, perché anche qui c'è un'altra imprecisione di comunicazione. I contributi ai partiti, la politica li ha costantemente diminuiti dal 2008 al 2012, e erano già il 40% meno di quelli che erano nel 2008 e nel 2012. Di questo 40% meno, quindi 60%, l'abbiamo ancora dimezzati e siamo arrivati al 30%. Quindi non è che nel 2013 pigliamo il 50% del 2008, pigliamo il 30% del 2008, questo per tutta precisione. Ma in questa legge viene detto che per avere diritto ai finanziamenti bisogna essere costituiti in partito politico, ci vuole un atto di fondazione costitutivo fatto dal notaio, uno statuto nel quale si determinano le modalità di gestione di questi finanziamenti. In realtà però Bianconi giornali... la nomina di una società di revisione. Ieri ho cercato per tutto, io non è che ci capisca molto, ma siccome la rete deve essere per tutti, io ho fatto quello che fa ciascuna persona. In realtà Bianconi la interrompo, perché in realtà oggi sui giornali la notizia è stata diffusa ieri dall'Huffington Post, c'è questa notizia. In realtà il Movimento 5 Stelle a quanto pare ha uno statuto. De Franceschi, tra l'altro, una domanda su questo, mi scusi, perché apprendiamo che da questo statuto Grillo è il presidente del Movimento 5 Stelle e il vice è il nipote di Grillo, Enrico. Che effetto le fa questa cosa? Assolutamente nessuno. È stato presentato un documento che era necessario per presentarsi alle elezioni, visto che questi simpatici partiti nell'estate del 2012 hanno provato con un trucco a fare una riforma di cui ha accennato vagamente, precisando per fortuna che non ne capisce molto, per poter bloccare il Movimento 5 Stelle, dato che noi partivamo con un non statuto, e quindi è stato fatto un atto per potersi presentare. Ma è un dibattito surreale, cioè stiamo parlando veramente di niente. Noi ci rinunciamo e basta. E il signore del PDL si è peraltro inventato delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Noi abbiamo rinunciato interamente, io, il Piemonte, la Sicilia, a tutti i rimborsi elettorali di qualunque natura. Quello di cui sta parlando il signore del PDL è l'extra stipendio, in quanto io invece di prendere 7-8 mila euro al mese ho deciso di tenere destinarli ad un fondo. Sì, e dato che noi non possiamo restituirli alla regione, perché la Costituzione della regione legge la tutta, non possiamo ridarli indietro alla regione, come sarà difficile darli indietro al Parlamento, li destiniamo in attività sul territorio, che possono essere ricorsi al TAR del Comitati contro l'inceneritore, contro un'autostrada, eccetera, cercando di farli ritornare alla società civile, dato che non abbiamo De Franceschi, la interrompo. Un altro paio di maniche. Poi ne riparliamo. Che, abbiamo capito benissimo. Saluto intanto Ugo Sposetti, siamo finalmente riusciti a raggiungere. Buongiorno. Buongiorno, senatore del PD, fu tesoriere dei DS al 2001 fino allo scioglimento, in realtà favorevole lei, Sposetti, al finanziamento duro e puro, diciamo così, nemmeno rimborsi elettorali, no? Sì. Sì. Rimborsi elettorali io lo cancellerei dalla legislazione. Parlerei di sostegno all'attività politica. Ma guardi che il vostro radioascoltatore Bianconi è preciso, lo dovete assumere, perché ha fatto una illustrazione della norma approvata dal Parlamento italiano, quindi Parlamento italiano, che è precisa, che stabilisce che chiunque forma un movimento politico o un partito o una bocciofila, perché quella che ho sentito che lo statuto depositato, cioè zio e nipote, mi ricorda un po' un altro partito, quello che si chiamava dei valori, dei tanti valori, no? Che era tutto di famiglia, moglie che non era la moglie. Quindi bisogna rispettare le regole e tutti i partiti poi. Ma tutti i parlamentari, tutti gli eletti nei consigli regionali, le indennità che percepiscono una quota la versano ai loro partiti per le attività sociali della loro organizzazione, quindi non c'è che qualcuno che è arrivato adesso è più bravo. Io rispetto questi ragazzi che sostengono il Movimento 5 Stelle, l'ho detto in tutte le occasioni, anche in dibattiti con loro. Ma un conto è difendere l'indifendibile. Io ho sentito alcune argomentazioni che sono indifendibili. Una cosa e poi chiudo. Il punto vero è che in Italia non è stato mai attuato l'articolo 49 della Costituzione dal 1948. Questo è il punto delicato, con irresponsabilità delle forze politiche, queste sì. E ancora oggi noi dovremmo mettere al primo punto l'attuazione dell'articolo 49, che se lei lo legge agli ascoltatori capiscono che quello ha un grande significato. Poi guardate, questo articolo, alla discussione di questo articolo, alla stesura di questo articolo, hanno partecipato i maggiori leader delle allora forze politiche, che sono poi stati i veri uomini di governo e statisti della nostra Repubblica, quindi non erano degli scemi, no? Che si inventavano rigidità. Articolo 49, visto ce l'ha chiesto Sposetti, lo leggiamo: tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. È preciso, no? Sì, dal quale... qui sono due paesi che sono responsabili del disastro della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia e la Germania, sono queste due democrazie uscite dal disastro che scrivono nelle proprie costituzioni, l'Italia e la Germania, la disciplina dei partiti politici. Questo fu allora una cosa veramente, veramente rivoluzionaria in termini naturalmente normativi e legislativi. La Germania questa norma l'ha attuata, noi non l'abbiamo mai attuata. Non dimentichi che il primo a presentare una proposta di legge fu Luigi Sturzo. 9 in punto. Brevemente sentiamo qualcuno di voi, qualche ascoltatore. Roberto da Bergamo, breve, mi raccomando, prego. Buongiorno, io volevo solo dire una cosa. Sa, con quei soldi lì che si danno ai partiti, e lo voglio dire a tutti i partiti, quante famiglie si possono aiutare ad arrivare a fine mese? È tutto questo l'insieme delle cose, perché il concetto è nella profondità, nell'emotività, nelle responsabilità, però vedo che nessuno si sente di avere delle responsabilità. Claudio dalla provincia di Savona, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, Sposetti nella sua lucida analisi ha dimenticato anche un piccolo particolare, che la Costituzione dice che il popolo è sovrano. Comunque, a parte questo, io sarei per l'abolizione. Sì, si riferisce, Claudio si riferisce al referendum, naturalmente, al referendum del 93. Evidentemente, sì. Ecco, che invece è stato completamente ignorato. Comunque, io sarei per l'abolizione del finanziamento, ma ammetto anche che ci possa essere una validità nel finanziare una campagna elettorale per permettere a tutti di correre e di presentarsi agli elettori. Per questo bisogna stabilire un tetto che sia quello, 2 milioni che so a partito, ma prima di tutto deve essere uguale per tutti. Non capisco perché un partito debba prendere più soldi se ha più deputati eletti. Non è che la campagna gli sia costata di più se dopo prende più voti. In secondo luogo, essendo un rimborso, io prima presento le fatture, la Corte dei Conti le esamina, se sono congrue verranno risarciti i soldi presentati nelle fatture, purché siano all'interno di quel tetto, punto. Tutto il resto è soltanto un meccanismo per continuare a foraggiare i partiti, disilludendo completamente quelle che sono state le opinioni degli elettori durante il referendum. Grazie Claudio, sentiamo anche Paolo dalla provincia di Milano e poi torniamo ai nostri ospiti. Paolo, buongiorno, breve anche lei, mi raccomando. Sì, brevissimo, due considerazioni. Primo, io inizio a averne, sono gentile, piene le tasche continuamente, tutti i santi giorni, di sentire che il voto al Movimento 5 Stelle è un voto di protesta. Una volta per tutti che i nostri politici, avversari, non avversari, si rendono conto che non siamo una protesta e siamo costruttivi per cose nuove, punto. Seconda considerazione velocissima, il finanziamento dei partiti è un pochino la cosa, la persona di prima mi ha un po' bruciata, io lo vedo come rimborso vero delle attività svolte, non di un dare dei fondi che poi verranno utilizzati per altre cose. L'usi insegna, mi sembra. Punto. Grazie Paolo. Riprendo però a questo punto da Sposetti, perché è stato sollecitato dagli ascoltatori sul referendum del 93, insomma il referendum c'è, dall'altra parte ci scrivono via Twitter, Massimo ci dice ma insomma se il Movimento 5 Stelle riesce a prendere il 25% senza rimborsi, perché li definite imprescindibili? Sposetti? Beh, questa è una discussione che penso che non possiamo fare in una telefonata, perché se c'è un movimento che sia di protesta ma anche di speranza, perché molti di quelli che hanno votato per il Movimento 5 Stelle hanno dato un voto di speranza in modo che cambino le cose, che cambi la politica, che cambi la burocrazia, che si riducano i tempi per la concessione, che ci sia lavoro per i giovani, quindi la cosa è molto complessa. Poi basterebbe vedere le ore che sono state dedicate a questo movimento, al suo leader, anche se non ha mai parlato da parte di tutti gli organi di informazione, sia pubblici che privati, ma questa adesso la discussione ci porta. Guardi, io non so quanto ancora riusciremo a parlare, ma i veri costi della politica sono altri, sono la riorganizzazione del nostro assetto istituzionale, via le province, la riorganizzazione della giustizia, la riorganizzazione della burocrazia italiana, perché se lei deve passare giorni per un visto alla ASL, per un malato, un suo familiare, lei diventa matto, quelli sono i veri costi, perché lei non può andare a lavorare per avere un timbro, un banale timbro su una prescrizione. Su questo Sposetti, io concordo perfettamente, perfettamente. Appunto, detto è ciò, che voi dovete ragionare, perché il resto. Detto ciò, però, noi possiamo pure cancellare. Scusi, finisco. Sì. Possiamo pure cancellare i partiti, ma lei deve spiegare ai suoi radioascoltatori che cos'è dopo la politica e dopo i partiti. Però la storia. Sì, storia. Però Sposetti, su questo io concordo perfettamente, che i costi sono altri, però insomma la questione del referendum è una questione sul piatto, perché quella è una questione di volontà popolare, una questione eminentemente politica, insomma c'è gente che ha votato, no, e forse questo voto va rispettato, no? Si tiene conto del referendum e si dice beh, adesso fermi ragazzi perché abbiamo combinato qualche pasticcio. Mi segue? Cioè? Io sto per aprire una discussione nel paese per questo, sto per aprire una discussione per il paese, e si deve partire dall'articolo 49, perché è chiaro che ogni norma non tiene se non c'è l'articolo 49. Quindi dare piena attuazione all'articolo 49, che è quello che riguarda i partiti, e poi da quello far discendere tutto quanto. Poi si può pure sottoporre quella proposta al referendum, ma questo non c'è problema, ma la disciplina delle bocciofile, se lei si iscrive a una bocciofila, troverà dietro la porta della bocciofila chi è il presidente, chi è il segretario amministrativo e chi sono i soci. È così? E lo statuto del Movimento 5 Stelle sembra un po' da bocciofila. No, in generale, no, lasci perdere il Movimento 5 Stelle, se non diventa una polemica, non voglio assolutamente entrare in una polemica. Su questo sì. Non ci voglio entrare. Abbiamo sì. Abbiamo capito, siamo però in chiusura, non abbiamo più tempo. Grazie a Ugo Sposetti, a Maurizio Bianconi, Andrea De Franceschi del Movimento 5 Stelle, Simona Bonafè che ci ha già salutato da un po', a dire il vero. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia, a Franco Piantanida in assistenza, Alessandro Marco Tulli in redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto, a Rosa, Eleonora e Sabrina al centralino. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Radio 24. La passione. Si sente.